Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Dal 20 al 22 marzo del 1848. Buona giornata da Simone Spezia, di nuovo una puntata speciale del Gazzettino del Risorgimento. La rivolta dei milanesi è finita, in 5 giorni hanno conquistato la città, ora libera dagli austriaci. In diretta dal capoluogo lombardo, Paolo Piacenza. Paolo. Buongiorno Simone, qui a Milano ti confermo che di divise di Vienna non se ne vedono più. Sulla Madonnina in cima al Duomo sventola una bandiera verde, bianca e rossa. Gli ultimi 3 giorni sono stati di combattimenti intensissimi per le strade di Milano e mentre i palloni aerostatici hanno portato la notizia dell'insurrezione alle campagne, i martiniti, piccoli dell'orfanotrofi, hanno fatto bene la loro parte recando di corsa ordini da una barricata all'altra. Ordini dettati da un vero e proprio consiglio di guerra costituitosi sotto la guida di Carlo Cattaneo, che in queste ore convulse ha dominato la scena. È stata infatti la linea di Cattaneo a prevalere quando il feldmaresciallo Radetzky ha offerto a Milano una tregua di 15 giorni. Con negli occhi ancora viva l'immagine della strage di innocenti perpetrata dalle truppe austriache nella chiesa di San Bartolomeo, Cattaneo ha spinto per un rifiuto. La risposta data dal conte Borromeo al maggiore Ettinghausen, portavoce di Radetzky, è stata netta. I patrizi milanesi sono pronti a morire sotto le macerie dei loro palazzi. Il giorno dopo il popolo ha assaltato il Palazzo del Genio e ha fatto prigionieri 160 soldati, poi la battaglia finale a Porta Tosa, nella quale gli austriaci hanno schierato tutte le forze disponibili, bombardando gli insorti per 6 ore. Niente da fare, i milanesi hanno resistito e già qualcuno vuole rinominare Porta Tosa Porta Vittoria. Paolo, sappiamo che i Savoia sono intenzionati ad intervenire nel Lombardo-Veneto. Quali possibilità ci sono che questo accada? Beh, le possibilità sono molto concrete. Già nel secondo giorno della rivolta milanese una delegazione aveva raggiunto Torino e aveva chiesto a Carlo Alberto di scendere in campo, ma lui aveva replicato che lo avrebbe fatto solo a partire da una precisa richiesta del governo provvisorio, che a quanto pare sta per arrivare, ma non tutti sono d'accordo, in cominciare da Carlo Cattaneo. A questo proposito abbiamo raccolto uno dei momenti più duri del dibattito che si è svolto all'interno del governo provvisorio milanese. Maledetti Savoia, dove sono i 40.000 fucili che dovevano essere già arrivati a Milano? Questo re dei miei coglioni cosa fa? La città è in preda all'anarchia. Carlo Alberto ha giustamente timore che tutto degeneri in un senso che a lui non piace. E la situazione non diventa più ordinata a lui. Lui, come tutti i re, è un nemico del popolo. Avete sentito? I toni sono questi. Fatto sta che le truppe dei Savoia sono ammassate al confine con il Lombardo-Veneto. Carlo Alberto ha la quasi assoluta certezza che comunque il popolo sarà con lui, visto che a ribellarsi c'è stata anche Como. La guarnigione austriaca là si è consegnata nelle mani dei cittadini. Più difficili saranno le cose man mano che si andrà verso est. La rivolta di Venezia sta infatti sfociando in una repubblica guidata da Daniele Manin. È tutto, sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie. Come sempre, venite a visitare il nostro blog, la nostra pagina Facebook, oppure scriveteci prendendo penne e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettinoetradio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, la curate insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.